Garibaldi fu ferito ad una gamba. Gazzettino del Risorgimento, la storia dell'Unità d'Italia. Per Garibaldi, viva! Da gennaio a maggio del 1831. Il conclave trova l'accordo e Papa, il Veneto e conservatore Cappellari. Fallisce un tentativo di insurrezione a Modena, giustiziato il capo, Ciro Menotti. Muore Carlo Felice, sul trono dei Savoia sale Carlo Alberto. Battaglia letteraria e politica tra padre e figlio a Recanati, non si parla d'altro. Una buona giornata da Simone Spezia e dalla redazione del Gazzettino del Risorgimento. Dopo due mesi di conclave, i cardinali hanno trovato un accordo. Probabilmente spinti dalle rivoluzioni che si sono concluse in Francia e Belgio e da quella ancora in corso in Polonia, hanno scelto di puntare sulla conservazione. Il nuovo Papa è Bartolomeo Alberto Cappellari, che prende il nome di Gregorio XVI. Un monaco camaldolese, originario di Belluno, è un ottimo teologo e la sua scelta sembra che sia stata molto apprezzata a Vienna. Non a caso è stato proprio lui a chiamare gli austriaci per sedare la rivolta che si è vissuta a cavallo tra il Ducato di Modena e lo Stato Pontificio e guidata da un industriale di carpi. Il suo nome, Ciro Menotti, per una breve stagione è stato sulle bocche di tutti i patrioti liberali dell'Italia centrale, e non solo. Ora però dovrà essere pronunciato con circospezione. Il 26 maggio Menotti, industriale di carpi, vera anima dei moti che hanno sconvolto l'Italia centrale tra febbraio e marzo, è stato impiccato. A volere a tutti i costi la sua morte è stato lo stesso duca di Modena, Francesco IV, quel duca che per alcuni mesi era sembrato approvare l'azione liberale di Menotti. Le speranze dei patrioti erano riposte soprattutto nella Francia di Luigi Filippo e nel principio del non intervento proclamato dal nuovo re dei francesi. Dopo la rivoluzione di luglio, Menotti ha tessuto la tela di un'ampia cospirazione forte del rapporto con Enrico Misley, avvocato e frequentatore abituale della corte ducale. Ma la presenza di 117.000 soldati austriaci in Lombardia e la prudenza della Francia devono aver spinto il duca a cambiare idea. Il Menotti è stato così arrestato poco prima della sollevazione di Bologna e Parma, a cui si sono unite ben presto Romagna, Marche e Umbria. Ancora una volta, tuttavia, gli austriaci hanno fatto valere la forza delle armi e Menotti è finito sul patibolo. Paolo Piacenza e il Gazzettino del Risorgimento, Radio 24. A quanto sembra c'è stato anche un tentativo di insurrezione in Savoia, organizzato ancora una volta da Giuseppe Mazzini, peraltro appena uscito dal carcere, non ha avuto successo e i patrioti sembra che si stiano riorganizzando. Era stato il reggente che nel 21 aveva concesso la Costituzione al Regno di Sardegna, mentre il cugino Carlo Felice era a Ravenna. Ora Carlo Alberto di Savoia, dopo la morte proprio di Carlo Felice, siede sul trono. Le speranze dei liberali, a giudicare da queste prime settimane di regno, sembrano destinate ad essere deluse. Il nuovo sovrano non ha ancora dato segnali di voler dare una sterzata in senso costituzionale. A Recanati e nelle Marche non si parla d'altro, ossia della battaglia politico-letteraria tra padre e figlio. Si tratta di Monaldo e Giacomo Leopardi, il primo rigido conservatore, molto religioso, ha tra l'altro in passato avuto la responsabilità di guidare la città. Il figlio, invece, di simpatie liberali, tanto da essere stato scelto come deputato dell'Assemblea del Pubblico Consiglio di Recanati, ha pubblicato qualche anno fa un'opera in prosa dal titolo «Le operette morali». Il padre, giudicandole libertarie e contrarie ai sentimenti cristiani, ha fatto uscire i dialoghetti sulle materie correnti nell'anno 1831, che sta riscuotendo un grande successo. 6 edizioni in 100 giorni e traduzioni in francese, in olandese, in tedesco. È tutto per questa edizione del Gazzettino del Risorgimento. Come sempre sul nostro sito potete scaricare il foglio quotidiano con immagini e notizie, visitate il nostro blog o la nostra pagina Facebook, ci trovate aggiornamenti e approfondimenti, lasciateci un commento o fatelo prendendo penna e calamaio elettronici, l'indirizzo è gazzettino@radio24.it. Da Simone Spezia, che ha condotto questa edizione, l'ha curata insieme a Paolo Piacenza, una buona giornata.